vincere a tutte le anime, specialmente le creature territoriali. Ecco, facciamo questo rosario, sedetevi pure un attimo, vi spiego come lo facciamo, come lo recitiamo, e facciamo il rosario come sempre, però con l'esperimento di farlo meditato, con una piccola meditazione breve. Io magari utilizzo alcuni schemi di meditazione che ho scritto quando uscì la Rosarium Virginis Mariae di Giovanni Paolo II, e nel 2003, quando mise ai Misteri della Luce, lui suggeriva di dire il rosario così come lo facciamo oggi adesso, solo che a volte è un po' complicato, perché dice appunto di fare un momento di meditazione e poi dopo la decina una piccola preghiera. Intanto proviamo, lo facciamo anche per prepararci un po', per chi lo desidera, alla fine del rosario, e se qualcuno desidera c'è la possibilità della confessione con Don Giuseppe o con me. Allora, noi oggi recitiamo i misteri gaudiosi del rosario. Allora, nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria. Entrando da lei disse: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. La vista del messaggero, le parole di Dio che le rivolge, provocano in Maria un forte turbamento. La grandezza di Dio, la sua trascendenza, riversata in dolci parole umane, è tremenda. Il cuore batte molto forte e si avverte la presenza dell'Eterno, un disegno d'amore che ci precede e ci guarda, ci interpella e conta su di noi. Intravediamo l'arduo cammino e le prove. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Non avere paura, figlia di Dio, figlio di Dio, perché a tuo padre è piaciuto di svelarti i segreti del suo regno. Non aver paura, cristiano, riconosci la tua dignità, la tua vocazione a essere santo, santo come Dio è santo. Non avere paura di seguirla, perché Dio ti ha scelto, perché Dio ti ama, Dio ti aiuterà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio. Padre onnipotente, che per mezzo dell'annuncio dell'angelo hai rassicurato Maria dal suo timore iniziale, incoraggiandola a seguire il tuo disegno, dona anche a noi che desideriamo servirti e amarti di vincere la paura di donarci interamente a te, per Cristo nostro Signore. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria a Elisabetta. No, aspetta, leggo prima, faccio la meditazione sul mistero. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Elisabetta non ha bisogno di parole d'angelo né di chiedere spiegazioni, le basta il saluto di Maria, il salto di gioia del suo atteso e la potenza dello Spirito Santo che le spiega ogni cosa. Maria, per lei, è subito la benedetta tra le donne, è la madre del suo Dio e lei si sente indegna della visita. Alla prima uscita pubblica, il Figlio di Dio, concepito da pochi giorni, conferma la sua prerogativa di essere fonte di gioia. Basta la voce di saluto di sua madre. Rallegrati, Maria, diceva l'angelo Gabriele. Si rallegra Elisabetta a gran voce e la gioia sarà di tutto il popolo. Padre nostro, che sei in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

affinché siamo risvegli di questo Cristo. Preghiamo, o Dio, tu e tuo figlio ci hanno curato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il rosario, la Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di guidare i tuoi stupendi e di raggiungere ciò che si promette. Per Cristo nostro Signore. Amen. Come era